Bentornati su La Storm Rock, su Radio Città Fusico di Bologna. Oggi sono a Ferrara, al Circolo Black Star, per un'altra intervista internazionale. Per la prima volta in Italia arrivano da Filadelfia, Pennsylvania. Sono sotto la Bedtime Records, dove lo Scala fa la padrona, e si chiamano Cat Bite. Sono qui con me Brittany, la cantante, Chris alla batteria, Ben basso, Tim chitarra, Kaylith alla tastiera. Prima di tutto, grazie per questa intervista, del vostro tempo, e come state? Va benissimo, un po' stanchi, ma siamo in tour da qualche giorno oramai e non abbiamo ancora avuto un giorno libero, quindi siamo sempre in movimento. Tecnicamente siamo in tour da quasi 3 mesi, ma con qualche giorno qua e là a casa. Siamo appena stati a Città del Messico per un weekend, poi 2 giorni a casa e poi siamo venuti in Europa. E proprio prima di questo abbiamo fatto un intero tour negli Stati Uniti. E proprio prima di quello siamo stati in Europa per un mese intero, quindi sì, è stato piuttosto intenso, ma non in Italia. Abbiamo fatto Europa, Stati Uniti, Messico e ora siamo di nuovo in Europa. Ci piace stare impegnati comunque. Ho una domanda introduttiva. Come saprete, i NoFX sono sciolti alla fine del 2024. Cosa significano per voi i NoFX? I NoFX è una band leggendaria, è stato un onore suonare con loro, conoscerli, in particolare Fat Mike, ma tutti loro. Guardarli suonare ogni sera è stato fantastico, ma a livello personale, sai, penso che per molte persone in quel mondo le compilation siano state un modo per avvicinarsi a punk rock, e per me le compilation della Fat Records e lo erano. È così che ho scoperto molte band diverse in età giovane, senza effetti particolari. E poi pubblicare tutte le loro compilation ha messo a luce tantissime band di cui altrimenti non avrei mai avuto sentito modo di parlare. Quindi è stato davvero, davvero incredibile, un onore suonare con loro. Come ho detto nell'introduzione, prima volta in Italia, come vi sentite ad essere lontano da casa con la band? Siamo lontani da casa, ma siamo tutti insieme, quindi sì, sembra che siamo una famiglia, anche quando siamo in tour. Ovviamente abbiamo animali domestici, partner e altre cose a casa e ci mancano, ma è fantastico poter fare il tour e suonare la nostra musica, soprattutto fare uno show da headliner come quest'anno, che stiamo facendo davvero per la prima volta. Tu sei headliner ed è davvero fantastico. Avete trovato differenze a livello emotivo o di interesse tra Europa e America? Sai, un maggiore apprezzamento per le band la vivo in Europa. In Europa tutti sembrano molto entusiasti, e anche se non ci hanno mai visto o ascoltato prima, ascoltano comunque la nostra band. E sai, all'inizio di quest'anno abbiamo suonato un paio di festival europei e la gente è arrivata presto, quando aprono le porte del festival, e questo in realtà non succede molto spesso negli Stati Uniti. Quindi molte persone riescono a vedere la nostra band e poi vengono ai nostri show da headliner, ed è proprio diverso. È diverso, ma è rinfrescante. A volte in America le persone si presentano solo per la band che vogliono vedere e arrivano presto, e a volte suoniamo, ed è fantastico suonare con band punk, ma potremmo anche essere l'unica band ska, e a volte ci sentiamo un po' esclusi. In Europa le persone sono semplicemente ricettive a tutti i tipi di musica, quindi indipendentemente dal pubblico o dal luogo in cui ci troviamo, la gente è entusiasta di ascoltare la musica. Questo ci aiuta a suonare meglio. Penso che a parte emotivo, sia che ci va ai concerti negli Stati Uniti, dà per scontato queste band faranno tour negli Stati Uniti continuamente. Quindi quando veniamo in Europa sappiamo che non è il pubblico normale che vediamo di solito, sono persone che vengono a vedere una band internazionale. Penso che quando succede al contrario negli Stati Uniti, se c'è qualcuno che viene dall'estero, riceva un più entusiasmo e un'accoglienza migliore, perché negli Stati Uniti non c'è una vera e propria stagione dei tour, le band fanno tour praticamente tutto l'anno, quindi non tutte le band possono permetterselo, e non credo che le persone li apprezzino davvero quanto sia difficile e costoso fare un tour. C'è davvero molto dietro, perché succede continuamente, ci sono sempre nuove band che emergono e non tutti riescono a venire fin qui. Quindi penso che le persone siano più entusiaste di vederci semplicemente perché abbiamo avuto la fortuna di venire abbastanza lontano per poterlo fare. Quanti e quali messaggi profondi ci sono nascosti dietro i vostri testi, magari di quelle frasi che non si comprendono al primo ascolto? Beh, penso che forse molte persone, in effetti, ieri sera qualcuno ci ha descritto come nostra musica da festa, il che secondo me è vero, perché è molto ballabile ed è divertente, ma molte delle nostre canzoni parlano di lotte, almeno per quanto riguarda me, delle riflessioni personali sulle cose stupide e sbagliate che ho fatto nella mia vita e continuo a fare. E penso che magari al primo ascolto non si percepisca, perché sai, stai parlando e ti diverti, ma sì, gran parte riguarda la salute mentale e alcune relazioni, un po' di alti e bassi nell'essere in una relazione. Penso che anche che personalmente non dia molta importanza ai testi, ma penso che i nostri testi siano davvero molto aperti all'interpretazione. Quindi in alcune canzoni non è davvero spiegato esattamente di cosa parlino. Penso che questo dia all'ascoltatore l'opportunità di farli suonare a modo in cui riesce a farli suonare per sé, il che lo trovo interessante. Parlando dell'ultimo EP, le ultime due canzoni di Doomgarden, Deteriorate e Remediate, sembrano connesse. Una prima parte negativa per poi esserci la parte positiva. È corretto? Sì, assolutamente corretto, hai vinto. La mia idea iniziale quando abbiamo scritto quelle due canzoni e stavamo mettendo insieme l'album era di dividerle, far aprire il disco con Deteriorate e chiuderlo con Remediate. Ma immagino che funzioni meglio metterle insieme. Non so se sia una questione tematica, perché in realtà non presto molta attenzione ai testi, quindi è solo una questione di suono, del suono sottostante, un piccolo dettaglio curioso. Ciao, it's me, sono io. Ecco un'altra cosa che voglio dire per divertimento. Non ho scritto nessuno dei testi, quindi posso permettermi di dirlo, ma una cosa che mi piace davvero dei testi e dei Cat Bite è che esprimono l'ansia in un modo che non riguarda tanto l'autocompiacimento o l'odio verso se stessi, che secondo me è un problema che molti fan del punk hanno. Spero non sia una domanda sbagliata, ma ho visto ho visto e sentito la cover degli Operation Ivy fatta con Laura Jane Grace. Se posso chiedere come sono i rapporti con lei dopo le accuse ricevute e cosa ne pensate di quello che è successo? Ovviamente sentiteli liberi di non rispondere. Penso che siamo stati vicino a Laura a Parigi per un po', è stato un po' straziante vedere che succedeva in modo così pubblico, e questa è stata una delle cose che ci ha colpito. Avrei voluto che non fosse così pubblico, ma non abbiamo alcun motivo per non voler bene a Laura. Le auguriamo il meglio e speriamo che entrambi possano trovare la guarigione per conto loro. Consideriamo ancora Laura un'amica. Spero che stia bene e spero che il futuro presto potremo suonare di nuovo insieme. Spero che entrambi stiano bene. Arrivare a un punto effettivo in cui entrambi siano di nuovo in grado di esibirsi, perché sono performance davvero, davvero originali, davvero speciali. Invece passando a qualcosa di più positivo, su Bandcamp ci sono 27 canzoni della serata L'Empty Bottle al Riot Fest acquistabili, dove il ricavato è stato diviso tra due organizzazioni benefiche per le persone colpite dagli incendi a Los Angeles, Sweet Relief e Best Friends Emergency. Sapete com'è andato o come sta andando il ricavato? Quindi abbiamo deciso di fare una registrazione diretta del mixer, del video, del concerto dell'Empty Bottle, e in realtà non sapevamo bene cosa farne, perché sembrava strano pubblicarlo come parte di un set di cover, ma molte persone se lo sono perso e volevamo che la gente lo ascoltasse, e per fortuna Band ha chiesto e ha mixato tutto l'album, e io ho curato tutto il materiale video, e proprio quando è scoppiato l'incendio ci siamo detti: questa è l'occasione letteralmente perfetta, sono sicuro che potremo raccogliere un paio di migliaia di dollari. Così ho mixato tutto e poi l'abbiamo messo su Bandcamp a mezzanotte, appena finito tutto. La mattina dopo c'erano già tipo $5,000 durante la notte, e penso che per il totale sia stato intorno ai $30,000, e siamo riusciti a destinare in beneficenza. Purtroppo Bandcamp ha preso un po' di commissioni per cose varie, ma penso che siamo comunque riusciti a dare circa $12,000 a ciascuna associazione benefica. Quindi è stato, non ce l'aspettavamo effettivamente, è stato molto bello, perché l'abbiamo fatto con la formula paga quanto vuoi, cioè paghi $1 per l'intero album, oppure alcune persone hanno pagato fino a $1,000. Penso che sia stata tra l'altro la cifra più alta. Le persone volevano comunque contribuire alla beneficenza, e se dicevamo se possono avere questo fantastico album e sapere che sono riuscito a raccogliere un po' di soldi per alcuni animali e musicisti colpiti, tanto meglio. E poi è davvero bello, non potevo credere che di poter raccogliere così tanti soldi. Può sembrare una domanda banale, ma è una mia curiosità e ogni tanto vengono fuori aneddoti interessanti. Come avete scelto il nome Cat Bite? Mi piacciono i gatti. Io ho iniziato a scrivere musica tipo 5 anni prima dei Cat Bite, ma non la condividevo con nessuno. La mettevo su una cartella dei Tunes e sotto il nome dell'artista scrivevo Cat Bite perché pensavo suonasse bene. Poi un giorno, quando abbiamo iniziato questa band, e ho detto, possiamo chiamarla Cat Bite? Brittany dice, sì. E allora da lì è stato Cat Bite. Credo che suoni semplicemente come un nome figo. Abbiamo persino fatto un poster o un volantino con un concerto. Ma per nessun concerto in realtà. Non c'è nessun concerto. Quando abbiamo inventato il nome ho iniziato a creare arte per a fine se stesso. Era tipo come se fosse una band fittizia quando avevo circa 23 anni, almeno fino a 12 anni fa. Ma lì è rimasta ed è rimasta per tempo, fino a quando effettivamente sono nati è nata effettivamente la band. Io ricordo di questi tre EP self-title di qualche anno fa, dove gli 8 brani all'interno li avete proposti in 3 versioni diverse: ska in stile Cat Bite, country e hardcore. Geniale, è come se vi foste autocoverizzati. Come è rimasta questa scelta delle versioni diverse? Ce ne saranno altre magari con altri generi diversi? Non ricordo davvero nello specifico di chi fosse l'idea, ma è successo più o meno a metà della pandemia, quando eravamo tutti bloccati in casa da un anno intero. Penso che avessimo già scritto un nuovo disco, l'intero disco era tutto finito. Il disco era Nice One, registrato, masterizzato, pronto per uscire, ma non potevamo per fare concerti, per promuoverlo, quindi dovevamo creare un po' di attenzione online per far sapere alla gente che stavamo a pubblicare un disco nuovo. Credo che inizialmente c'era una band chiamata Omnicon, che sono nostri amici della Bay Area in California, e avevamo fatto una cover hardcore di Scratch Me Up, perché loro sono stati una band più hardcore. E noi abbiamo pensato, e se l'Halloween facessimo una cover della loro cover nella nostra canzone? Quindi questo giro di rigiro di rigiro. L'abbiamo fatto, e quando l'abbiamo fatto in versione hardcore nella nostra stessa canzone, basandoci sulla loro, ci siamo davvero divertiti un sacco. Per poi quella era una cosa solo per Halloween. Poi, dopo aver finito l'intero disco, tutto Nice One, ci è venuta l'idea di raccogliere un po' di soldi per noi stessi facendo un disco acustico e pubblicandolo. Io sto per compensare i costi del disco principale. Ben impazzito e poi l'ha trasformato in una versione proprio disco country. Così abbiamo registrato, pubblicato e alla gente è piaciuto. Abbiamo fatto uno scherzo tipo pesce d'aprile. E la sera prima del primo aprile ho scritto su Twitter: se una sola persona mette un mi piace, pubblicheremo un disco country. La gente ha pensato che fosse uno scherzo del pesce d'aprile e invece il giorno dopo l'abbiamo davvero pubblicato. Ed è stata tipo una cosa molto divertente. Abbiamo continuato, era aprile, e poi durante l'estate, poco prima che uscisse il disco, abbiamo pubblicato la versione punk. È successo un mese dopo, il disco punk l'avevamo fatto una cosa per beneficenza. Ci siamo semplicemente detti, registriamolo, pubblichiamolo, paga quello che vuoi e raccoglieremo i soldi. Non ricordo per quale organizzazione, l'abbiamo fatto per divertimento e alla gente è piaciuto davvero tanto. Poi alla fine abbiamo stampato anche qualche vinile e fatto un paio di concerti. Abbiamo suonato 3 concerti di Cat Fight con strumenti diversi. Siamo anche tornati indietro, credo che abbiamo fatto una versione deluxe di Nice One in cui siamo tornati a registrare 4 di quelle canzoni in stili diversi e ogni tanto facciamo uno scherzo del tipo: adesso faremo il nostro disco samba o qualcosa del genere. Non so se è quello, non minacciarmi per un buon momento. Quindi potrebbe esserci qualcosa del genere in arrivo, ma per ora stiamo concentrando sull'evoluzione del suono dei Cat Bite senza fare uno scherzo. Poi chi lo sa, dopo tutto tutti noi ascoltiamo e siamo fan di tantissimi generi diversi e li incorporiamo tutti nelle canzoni dei Cat Bite. Quindi sembra una progressione naturale che altri stili di questo tipo possano provare la strada nelle canzoni mentre continuiamo a scrivere e pubblicare. C'è qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dire? Dove possiamo provare una buona pizza da queste parti? Taglia questa parte, non l'ho fatto, dettagli. Penso che vogliamo solo dire grazie a te di averci ospitati. Siamo davvero entusiasti di essere qui, è la nostra prima volta in Italia e spero che le persone continuino ad ascoltarci e godersi della nostra musica. Siamo semplicemente molto grati. In questo mondo strano, nel mondo in cui stiamo vivendo, è più importante che mai prenderci cura l'uno dell'altro. A quel paese Trump, libertà per la Palestina, le vite trans contano. Prendetevi cura l'uno dell'altro, perché mentre questo mondo continua a diventare sempre più strano, possiamo fare affidamento solo sugli uni e sugli altri per aiutarci a vicenda. Kailiz, hai ancora una frase da dire? Fai l'ultima dichiarazione. Sono Kailiz, traccia 1 di Dune Gardens, Dying Denver, parla di persone transgender, lesbiche e sull'amore. È giusto che la gente lo sappia. L'intervista è finita, grazie ancora per il vostro tempo, grazie alla Barley Hearts, Montanari Francesco, Distruggi la Barza e il circolo Black Star.